Ehi, raga, voglio sentire un sacco di casino per mio fratello, per mio fratello Cabo al 3. 1, 2, 3! Bow! Oh. Ok, raga, benvenuti a Comunità Resistenti. Noi siamo Rap Caverna Posse. Questa serata è benefit per i compagni e le compagne sotto processo, condannati e condannate per lo sgombero di ZAM nel 2013. Quindi stasera, insomma, quello che facciamo l'avete già capito. Zami Pop Club da Milano Sud. Abbiamo nostro fratello DJ Libero sui tecnici. Regà, fatemi sentire un po' di casino per mio fratello DJ Libero al mio 3. 1, 2, 3! Boom! Che dici, bro? Possiamo partire, Ok. Ma più o meno così. Ebro delibre di libre alle sogne, di grata soglia e febbre da cavallo nella cui bocca mi guardo bene dal guardare. E da guardare sono meglio, sono una meraviglia. Quando il parapiglia, farfaglia, fare vermiglia. Rap caverna, posta e la famiglia. Cena da greve al pinta, la cosa cui fuga un sugo per il pan della famiglia. Pulinelli, timonelli che affonderanno sul fondale. Siamo tribù senza attributi con altri punti da tabù. Tra le fronte della foresta siamo scimmie, testa con scimmie in testa. Non c'è due senza fresca, nessuno alza un po' la cresta. Siamo una squadra marcissimi da comparato. Brasati che bramano il tuo brasato. E corni da recarsi baffi, ma c'è chi tiene puzza sotto il naso. Pur col fatto che ho non fatto tambato, li stiamo al naso. Sarà di un patologico, non può che essere patologico. Mi accusa il coltello dalla parte del sadico. Violenza degli stati, massacri ad Afri. Pulizia etnica, tattica, industria bellica. Sfama soldati, assoldati. Su cubi di soldi, sparano colpi di calarmati. Su corpi disarmati. Militare, militare, figli e fame che ha fama di comandare. Ma invece obbedisce perché non sa ragionare. Sogna la vita se le strisce nelle ferro destre italiano. La Roma in casa che pulisce e mangia sempre dal che babbaro. L'hai scelto per lavoro o l'hanno scelto loro? Vuoi vivere nel decoro, spaccia morto a peso d'oro. Mercenario della corte del più forte azionista, che non rischia investimenti ma stipendi al terrorista. Cane bastardo con guinzaglio, tardo, facile premere grilletto e centrare bersaglio. Sbaglio se non scaglio la pietra, la resistenza non arretra. Senza pietà, Rock Caverna Vietnam. Oh, oh. Ci sei, fornace? Okay. No. Su, su, su. Regà, siete carichi su per Yard Squad Crew? Non si è sentito un cazzo. Siete carichi per Yard Squad Crew e per il DSA Comando. Go! Di continuare con il live, volevamo ricordare un fratello, un compagno, un amico scomparso, Jerry. Jerry rimarrà sempre con noi. Quando dico fornace tu rispondi antifa. Fornace, fornace, qua qua. Quando dico fornace tu rispondi antifa. Fornace, fornace, fornace. Ah, allora ci siamo. Qualche problema tecnico. RCP nel posto, un po' di casino, più vicini sulle mani. Tutti sulle mani a tempo, eh? Oh! Al microfono Marmorray! Ehi, ehi, ehi! Oh! Ci sei o no? Su, su, su, su! MI su circonvalla, a 1000 gradi Fahrenheit. Con l'anima dannata e suono dannata. RCP è come graffa barricata. Ciclo, molotova, 1-3, 1-2 lo slogan. Fino a che il collo si sloga. lo spingo e te lo porto in alto ancora. Pure se rimango senza broda, ehi, sono quello che dici che fotta questo. Tanto il fascio prende fuoco, lo spingo non stop e si vede. Si pompa il loco e rap e chiama il pompiere. Nuovo stile, ma mai sentito sto stile. Antiproiettile, se le rime sono ogive. Un pusher se le lettere sono palline. Un fat cap se sono un tank. OG, come ogni giorno scemo, su ste basi sputo veleno. Lo suono da paura, ti richiudi quattro mura, a tu per tu con l'ultraterreno. Con il cuore sopra se quattro parti, stronzo, sono quello che senti, puoi infarti. Chiama il pronto soccorso, se non sei ancora pronto al del collo. Il sole alzato da ste panche, zio, descrivendo il destino come parche. Questo manifesto affisso in alto, pure sul muro del pianto, Dio. Scrivo lettere in grassetto, che poi c'è chi le cerca col gessetto. Fra, sull'asfalto ricorrono e resamina la sagoma, ma sono già al di là. 24H da quanto ne ho, 24 sputo merda, questa è la faccenda. Uccido sempre il foglio con la penna, reato risolto, 3 metri sottoterra. Voce bazooka, ti salta la nuca. Sono una mitraglia battistuta. Ho il flow alcolico tipo vodka, versene un po' ti bevo alla goccia. Flow rompiossa ti spacca la testa, il brano come animaletta. Sono roccolato faraonico, sul monitor il monito tu resti attonito. Metrica labirintica non esci vivo, le parole che so peso quando scrivo splendono come un diamante al sole. Buono il vento, il flow che scuote il cemento. Ma lo flow, pelle rossa, faccio il tuo scalpo mentre scavo la tua fossa. Il sangue che sgorga, orta recisa, taglio si rapper come coca e bica. Si brucia la faccia, flow inferno, come il freddo d'inverno. 199324, puto merda sull'asfalto caldo. Pow, marmo, RCP nel posto, RCP. Regà, un po' di casino per mio fratello Marmorei in 1, 2, 3. Bella raga. Questa sera la formazione è ridotta, siamo in 3. Uno di noi sotto il palco sta male. Applauso per Citizen. Due altri sono a casa, l'altro è in Sud America, l'altro ti fa i cazzi suoi. Ora abbiamo il DJ. Mi volete poi un po' di screcci o no? Ok, così proprio. Va bene, va bene. Oh, contro di voi è chiaro, il nostro scuro non è lato come senso. Se penso che l'oscuro è da dove sono nato. Cresciuto tra le pare delle cale e calar della notte. Calati palpebre, smascellamenti, bottiglie e ossa rotte. Le rotte mentali per rotte, tampare fantasie adolescenziali. Senza soldi, tanti pizzi e ricorrenze domenicali. Tremando stremati sui binari, tramandando sorrimenti passati. Gloria di finto eroe per noi da mullare come capi. Capi firmati rubati, come cani randaggi bastonati. Nati in cattività per questo, partoriati di rabbia. Canca vai a scappa mettendo la testa sotto la violenta lampada. Questa è la violenza servita su un campo di merda in coiala. Non recepisci strisci, uomo morto non cammina. A mille miglia la tristisce, perché vuole un'altra vita. RCP, riabilitazione cardiopolmonare. Riprendiamo vita da sotto la maggiore dell'industria musicale. Noi contro di voi, voi contro di noi. Quel controllo di noi, ma noi vogliamo i corpi morti di voi. Siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Noi contro di voi, voi contro di noi, vuoi controllo di noi, ma noi vogliamo i corpi morti di voi. Siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Sentito il freddo metallo nella carne, prima di ogni ricordo. Non mi stupisce che abbia forgiato una memoria di ferro, contro la quale colpi sferro. Eppure se le mani me ne lavo, ho ferite che non si rimarginano come senza fattore ottavo. Estraneo ai coetanei, coesistenza camaleontica, forma identica pur avendone viste di mille colori. Ricordi in bianco e nero rivelano un'anomalia, la malia dell'immaginario. Dalla prima volta che barcai nei ricancelli del pulsar uranio. Quando tutto si lava liscio come l'odio, l'oblio mi ha regalato identità come un luogo relegandomici, mentre il tempo soggettivo si compenetrava con le mie ore. Mi proiettavo film in quinta dimensione, perdendo rispetto per le persone, per il mio aspetto. Prese di petto come prese di posizione, spinte da un odio introiettato verso me stesso. Uno spaccato della dignità. Voi non vi saluto, sparo al salto con un noi contro di voi, voi contro di noi, vuoi controllo di noi, ma noi vogliamo siamo i corpi morti di voi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Noi contro di voi, voi contro di noi, vuoi controllo di noi, ma noi vogliamo i corpi morti di voi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Rifiuti da rifiuti di persone, per le sole abitudini nell'illudersi di essere il migliore. So che il sole bacia bene, la pioggia piscia in faccia. Non è tempo di bonaccia, ma d'alta marea che pigliotta spazza. Faccio man bassa con la vostra carcassa, non batto cassa. Mi appaga l'utirmi soltanto della vostra razza. Stormi di condor contro finti uomini di mondo. Feriscono su ferite la gattore e la carne che strappa. Ricordo ancora Brindisi al retrobusto di Cicuta. Chi metteva il muro, chi leccava il culo e chi leccava ferite con lingua mi forcuta. Io mi sono sempre esposto al fiele di voi crotali. Volavo basso, adesso in cerchio siete fritti come i totani. Ma me la prendo con fantocci che mi fantastico alla fantozzi. Battuti, truzzi, tapozzi, sono bambolotti o rumenotti. La recita è finita ma il copione lo tengo ancora in peritura a memoria. Dovessi lasciarci le penne e tirareste le cuoia. Noi contro di voi, voi contro di noi, vuoi controllo di noi, ma noi vogliamo i corpi morti di voi. Siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Tutti insieme. Noi contro di voi, voi contro di noi, vuoi controllo di noi, ma noi vogliamo i corpi morti di voi. Siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi, siamo gli avvoltoi. Un po' di casino per DJ Libero, le ruote d'acciaio. Non si è sentito un cazzo, regà! Fatevi un casino soprattutto per voi che siete qui! Uno, due, tre! Siete bellissimi! Bellissime! Bellissimo! Questa è la più divertente, forse. Testa mala? Breve ma intensa. Il tempo stringe, non lo vedo. Tappeto di siringhe, rotoredo. C'è chi vuol mettere su famiglia, chi non riesce a smettere di rimanere attaccato alla cinghia. C'è chi la figlia se la compra, chi non ha soldi e rimorsi, troppi sensi di colpa. Tu ti senti in forma, mettiti in coda, che la tua testa è già tirata come con la coca. Dove, come, cosa, senti non è cosa. Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Non faccio musica di merda, io sono una merda. Ma lo so, non faccio infame, non ascolto povia. Senti come suona, vedi come stona. Mangia non è buona, puzza come il forma. Guarda come stoma, tutto tova soffa, ma quale mo. Passami un'altra moga. Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Io non voglio fare figli per farli fare cosa. E poi nasce qualche strana mania, tipo la guardia polizia per una paga onerosa. Popo! Meglio panca bestia e frocia, non chiamarmi roccia. A 16 anni prima ernia con la schiena rotta. La divisa non ti fa grande il naso, che con la ragione col caso parli con la pistola. Popo! Sto droga, sesso rap e broda. Popo! La macchina nuova ma è ferma senza broda. Popo! Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Preferisco droga, preferisco droga. Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Io non parlo con gli sbirri, preferisco droga. Preferisco droga, preferisco droga. Ci siamo, no, porco Dio! Pagherete caro, pagherete tutto. Pagherete caro, pagherete tutto. Pagherete caro, pagherete caro, pagherete caro, pagherete caro. Merda! DJ Libero gli screcci! Allora ci siamo, no! Un po' di casino per DJ Libero! E anche se non vi piacciono gli screcci, ve li tuffate! Come siete ancora con noi, Fornace? Abbiamo appena iniziato! Fatevi un applauso, regà! Io con i miei fra della rap caverna boss, abbiamo skill di super skunk dentro il cave grosse. Spezziamo sigarette infette che ti fumi in solitudine. Noi come rito ci passiamo, ci un po' l'ardine. Ma che sarà la solita situazione italiana, quando ti vendono la spice che t'amano marijuana. Fume decine di cime con cime, come decine tu uccide. Sta che mi cinica, fumo da cinica che ti spacca la bile. Mi avvicino al tabacchino, compro cartine lunghe, filtri di carta ma senza scontrino. Mentre compago il tabacco, lo trovo al banco, supermercato, invece fatto mi sbatto, rischio di essere arrestato. A C, A, B, in A, B, T, C, B, liberi uomini virili con paura di essere ingatti, hanno il THC con le automobili, alimentando così una guerra tra poveri. Io usanti uno spino farò, ho già la vista in mano, vedi un po' come sto. Quando marijuana, quando marijuana, senti uno spino farò, ho già la vista in mano, vedi un po' come sto. Rollando marijuana, quando marijuana. Nei posti posticci, mi faccio negli spicci. Sono un pasticcione che va di pasticcini e mette su ciccia. Accendo una miccia e brucio le basi in partenza. Ho degli indifferenti e gli mostro come si fa la differenza. Mi graffio quando faccio gaffe, ascolto graffetti e metto graffette per ogni sbatti. Faccio barre, mangio barrette. Ormai è reso viscoso dagli introgli del sultano. Aumento la densità dell'ago, l'intensità del pH. Rapo in acido, ho una cosa che non me la ricordo ma continuo lo stesso. Faccio questa roba fino a quando finirò sotto un cipresso. Faccio il freestyle come un ossesso nascosto sotto un sasso. Sono come la vipera che ti morde poco dopo morto. Quel cazzo non importa, continuo ancora una volta sotto l'americana, che importa? Non è quella dall'altra parte dell'oceano, faccio questo flusso finché non sentirai partire questo aereo. Senti lo spino farò, c'ho già la mia mano, vedi un po' come sto. Rollando marijuana, rollando marijuana. Senti lo spino farò, c'ho già la mia mano, vedi un po' come sto. Rollando marijuana, rollando marijuana. Dopo di noi, R. Scott Crew, yes al comando. Adesso ci dovete ancora succare per un po'. Mi spiace. E ripartiamo stasera. Raga, avviciniamoci. E io, Marlon Ray, Pulsaru Radio. Quando fuori piove, dentro sto meglio. Si danzi ermetici, rispecchiano il mio tempo. Sono lungo un fiume, sempre sul lato opposto. Una lama mi piega e sporca sangue se la tolgo. Da che parte sono stato, giusto o sbagliato, ho scelto l'altro lato. E non c'è soluzione per un peccatore. Non ho scelto io se piove e sempre sbagliato. C'ho un peso sopra il petto come l'incudine. Sto parlando a un fiume, sta accendo quel lume. Questo fardello, sai fratello, pesa più della mia solitudine. Le voci in testa non te le racconto. Affronto nudo la tempesta, questo è reso conto. Più stai male, più puoi scavare. Io resto l'immenso di questo mare. Parlo su, su, su, su, su, su, su, su, su, su. Quando dico rap caverna, voi mi dite fosse rap caverna, parla con il fiume. C'è bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, stretti ospizio. Quando l'acqua arriva fino all'orlo del precipizio. Rituale di passaggio come il taglio del prepuzio. Nel momento più propizio, nel mistero della fede. Questo è soltanto l'inizio. Parlavo come Dio, metti i suoi arrivoli dai miei simili. Non avevo stimoli, vedo le mie cose che non me ne ricordo. Continuo con i testicoli, e ancora non importa. Quindi proseguo lungo il flusso. Sono come l'ultima rapida del torrente che non puoi superare se non con un tuffo. Nelle acque gelide profonde, battuto a monte come caronte. Il mastino verso l'orizzonte. Come il gerbero, questa volta mi inalbero all'albero maestro e finisco nell'oscuro profondo del maestro. E ancora una volta un barbo qua al mio fianco. Veniamo dalla stessa via, cascina bianca e notte in bianco. Ok, fino all'alba continuiamo ad attraversare la city e camminiamo tutti insieme sotto cieli grigi. Su, su, su, su, su, su, su, su. Quando dico la caverna, voi venite forse. La caverna parla con il fiume. Con il fiume! Sì! sui tecnici. Allora Fornace, ci sei o no? Oh, no, no, no, non sento un cazzo, sembrano le primarie del PD, porco Dio! Fornace, ci sei? Sì o no? Allora, Dio cane, bastardo! Ok. RCP nel posto, il pezzo si chiama Wild Style. Mai sazio, ancora in astinenza. Uso l'ingegno, perciò sono il meglio. Disegno pensieri che metto sul tempo. Lo argento puro che cola fra. La voce segna veloce come un throw up. La cosa è l'essenza, ho letto in fly. C'ho lo stile che Savage, più di West Style. Per strade in città gira il tag. È la rap caverna con le meglio punch. Bombic sopra ogni beat. Marchio di fabbrica sta per RCP. Abbiamo tecnica tonnellate, a caratteri d'oro il nome su murate. Sacro come il suono di ponte agitate, buono come l'odore di quelle pittate. Tra l'oscuro di questi palazzi sicuro le viste, prendiamo come punti inutili scritte. Siamo rapper, beatmaker, writer, ognuno con concetti a parte. Questo credo, spingilo pure tu, dal centro fino a Milano su. Dissi che sono tipo squeezer freschi, giacca doppia per tisserine, street view. Underground più di un marker in metro. Cito roba grezza, una fresata su vetro. Dal basso all'alto tipo subito il vagone. Rap col cuore, è merda d'autore. Come fosse arte, rap caverna ante, frate. Forse sono i migliori ma è più lunghi da salutare. Ti levo dal suolo, sì. Cavalca le transenne piuttosto un balcone. RCP boom. Per tutta la situazione, per tutti i compagni e le compagne che si sono sbattute da ieri, da anche prima con assemblee per decidere come, dove, quando, perché chiamare gli artisti, organizzare, montare, smontare. No, no, no, non sento un cazzo! Non sento un veramente casino, un po' di cazzo. Casino, raga! Questa è l'ultima uscita di Rap Caverna Posse, raga. Tagliano sugli assorbenti perché credo che vanno fermenti. Mentre molle dell'Europa borbotta ormai non basteranno i fermenti. Ma per i rovetti come ferro da Ciro Rowetta sotto questi assi di cessi. Fuori dalle mani che gli assi di bastoni e poi distruggiamo ai processi. Perché ci che si ispirano a Nascento, si ispirano a NASA. Vengono via come sacca, sacca, se uno tira l'altro, hashtag. Fuori tutti dalla mia caverna, come Shrek verso sullo sbarco. RGGGT, Soviet Bank, fedeli alle linee di Nazca. Siamo la teppa della steppa contro Capitan Vintus. Per i capitani di domani rifarsi alla casta, non fare di loro dei tu. Lo stile che ci colonizza è americano, blu fa come Pinku. Hanno do barre a piacimento, mi riallaccio alla teoria delle string. Nuovi input ed output per a dir good senza auto. Senza out, out, out, eita quanto basta ad incastrare l'umlaut col Müller turnout. Quanto l'amore della donna, della donna, della donna, della donna. Fate le barre con fervore da leoni da tastiera in lockdown. Dici chi fornace questa merda. Rap caverna s'entra. Fa saltare in aria ogni caserma. Boom, yo. Un assalto al centro. Una bomba in Parlamento. E al momento del giubileo. Spingi chi fornace questa merda. Rap caverna s'entra. Fa saltare in aria ogni caserma. Boom, yo. Un assalto al centro, una bomba in Parlamento e al momento del giubileo. Sogno l'orizzonte che si fonde in lontananza. Un gatto gospel, però che mobiliti la massa. E non disseta nessuna di queste tracks. Rap caverna crede terre questa siccità. Sono barre con più stile allucinati fra. Sopra quarti in sei colpi dai, sferzati con il mic. Skillati più di quanto ti aspettavi tu. Rime cool, tipo masse di Kenshiro su ogni groove. RCP più sconvolti nella stanza. Qui si taglia rime precise come serramanici a farfalla. E non servono gli effetti bro per capire che spingiamo questa roba sempre con un doppiatore. Metti nel tuo impianto questa merda. È la rap caverna setta che ti dà lezione. Con la testa in mic in dotazione. Invoca il nome RCP che segna questa nuova religione. Spingi l'intornace questa merda. La caverna sembra fa saltare in aria ogni caserma. Boom, yo. Un assalto al centro, una bomba in Parlamento. E al momento del giubileo. Spingi l'intornace questa merda. La caverna sembra fa saltare in aria ogni caserma. Boom, yo. Un assalto al centro, una bomba in Parlamento. E al momento del giubileo. Qua mi spaventa, ho avuto già te crisi di mezza età prima dell'età dei 30. Milano City che sperimenta occhi lividi dalla stanchezza, ti spreme le ridi, scarsa manetta. Smog con tanti liquidi, vestiti che ostenta sempre al top, edifici costruiti dalla finanza, le nottate riccheggia l'ambulanza, zanza il cushit marca, urla push a piazza, moda sushi e bamba. Rap caverna, mazza gospel, sequestriamo porta borse, sembrate ragazzini delle giostre, forse non rappate ma fate codice morse, dite cose a caso mentre fate corse, che ne sai te? Hai bisogno solo di like, mica di like, e non sai cos'è un cypher. Sui gradini del successo, cadi come Biden, bambini col complesso e ci girate attorno Kaiten. Spingi il fornace questa merda, la caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Boom, view, un assalto al centro, una bomba in Parlamento, è il momento del giubileo. Spingi il fornace questa merda, la caverna sventra, fa saltare in aria ogni caserma. Boom, view, un assalto al centro, una bomba in Parlamento, è il momento del giubileo. Ci siamo noi ragazzi, fatevi sentire, 1, 2, 3! Boom! Siete carichi per dopo, sì o no? Art Squad Crew, DS a comando! Lele Prox, Brusca, adesso... Ricordiamo che tutti i beat che sentite, tutte le produzioni sono autoprodotte. Ok. Mi piace il reggaeton. Essere un insetto ha i suoi pregi, per godere basta che ti sprechi. Solo che dopo lo sanno tutti i quartieri, è solo dinanzi alla lampada che preghi. Che non ti seghi, lascerebbe ben più che un paio di spregi. Dissemino le mie uova tra i tuoi ceci, così dopo puoi andare a dire che fai le mie feci. Non sono quello delle favole degli antichi greci, la tua morale a volte connotazioni specis. Da, fino a prova contraria, la delusione della formica operaia. Andiamo a dirglielo a quei polli dell'aia. Che fine ha fatto la femaia? L'ho cercata nell'arenaria. Se la selecta non è necessaria, ho chiedo morabaia. Chi ha voglia di mettere la mano nel vespaia? A me fa senso soltanto guardare una cicala. Se ho le formiche ai piedi, ballo, vamos alla playa. Se noi in casa ne schiaccio una e le altre, vamos alla playa. Sotto il grande segno dell'insetto, muto il mio aspetto e penso vai, vai, vai, vai. Domani mi alzerò dal letto, metto allo specchio e dirò ai, ai, ai. Metto l'esoscheletro nell'armadietto e nel cassetto tutti i miei guai, guai, guai, guai. Domani mi alzerò più vecchio e ti zappetterò, perciando ai, ai, ai. Non è tutto alti e bassi, è soprattutto bassi. Ma quanto è fottutamente pazzo Pulsar! Essere un insetto ai suoi difetti, difatti li si tiene a stecchi. Non pensare che fungano per fare i dispetti. Se viene dato il 5 devono evitarlo sotto tutti gli aspetti. Dagli umani non si aspettano complimenti, eppure non paventano i nostri pavimenti. Alle pareti possono lasciarci delle sorprendenti. Spesso sono presso profitti e non conviventi, programmano l'economia dall'alba dei tempi. Batta per quanto Quando dico chiki chiki, voi mi dite ciao. Chiki chiki, chiki chiki, chiki chiki, chiki chiki, ciao. Big up a mio fratello N. James sul beat, al mix e al master. Regà, fate casino per nostro fratello DJ Libero! Testa mala, testa mala. Testa mala, testa mala. Ladrinate ignorante. Pensare un po' questi ritornelli bellissimi che facciamo. Lota, nota, molotov canna in bocca. Tocca, no coca, a sala dura vita loca. Tocca, sabota, non vota più nessuna gotta. Non vediamo le cose cassate che dopo ci viene la gotta. Scappa dal Jacob, la pattuglia sotto casa. A me Julia tipo Shogram, perché stare senza casa. Le popo ci sono, perché ci sono quelle di lusso. Busso, la puta busso, un'altra volta lo sfratto. Non aprire quella fottuta porta. Mi spirri piano per non far rumore. Ti addormenti fascista e ti risvegli quest'ore. Porco dia, sodia la polizia. Maro maro follia, farò farò come Nasseria. Capo al capio, soldatina predappio. Onore rispetto un cazzo al capo duce che se la scappo. Rosso di sera fascio per terra altro che galera. Giù giù miniera, giù giù Siberia. Non è tra bro, non è troppo complicato. Questa merda rompe il capo che non ti ha ancora pagato. No, no. Quando mi prenderò una malattia terminale, cercherò di farmi saltare con l'esplosivo del tranquillale. Lotta, nota, molotov canna in bocca. Tocca, non tocca, a sarà dura vita loca. Blocca, sabota, non vota più nessuna gotta. Vediamo le vostre cazzate che dopo ci viene la gotta. Po, po, po. Ci sei o no, Fornace? Quando dico 13, tu rispondi 12. 13, 13. E quando dico 13, tu rispondi 12. 13, 13. Adesso lo rifacciamo in inglese. Ha un'introduzione a questo beat. Questo beat è gentile concessione di ESA. E grazie a lui oggi siamo conosciuti. Grazie al laboratorio gratuito. E dopo anni ho dato l'onore e il piacere di usare questo beat per fare l'Otta Armata Freestyle. E un po' di merda sputa da sopra, così. Se armo la voce, game over, ah. Sopra una croce, scendi strada e lotta armata. Sono rime tagliate, con skills affilate, come una crociata. Rap caverna banda sul beat, c'ho un'arma bianca, se ho in mano il mic. Ti sbaglio orizzontale, tipo striscia pedonale. Tu rimani a mezzo metro di distanza. A colpi di 4 per 4 barre si rappa. Apriamo in due la carne fra gamba. Alziamo i gradi nella stanza, perché si può tangere anche l'aria rarefatta. Abbiamo le pozioni, la pura chimia, droga. Su quelle cazzo di nuova roba. Prendi appunti per la stesura. Sono tecniche gol, più punti di sutura. Che siamo dei gressoni si evince. Sotto il ponte di baracca, chi la dura la spinge. Il no no no no no no no no no. La giusta cura contro la diffusione del cringe. Questo mercato sopra la riga non mi confligge. C'è chi mi ha tirato così tante da aver visto cadere il naso la spinge. Prossimo contesto male lingue. Ci vuole più dopamina, cile spremuta di meninge. Potrai vincere una battle ma nella guerra. Capitali da distruggere, ci sarà sempre una riserva. Unità agente guastatori a rap caverna. Autorizza l'uso di barre non consentite dalla cinesa del pass. Ragazzi udite, la buona nuova, lasciamo i rampolli, la corona per covarci le uova. Per noi non è cosa, la mia famiglia è muschiosa. Siete i re, ci riusciremo sopra. Sempre pronto per abbattere il tuo divo. Rap caverna contro le chiacchiere, l'istintivo. Non pretendo tu capisca quello che io dico. Ho sottratto l'io ragionando in collettivo. Odio sto circo mediatico, finto non pratico, mentre faccio rap, spinto rito satanico. Schifo vedendo il tuo schifo di video, leggo con barra cambio automatico. Sul palco son bradipo, rappo non alito. Non lavoro, non scappo, ma gravito, non ho un contratto, manco dove abito. Lotta armata, sotto barricata, flotta corazzata. Rap Mortal Kombat contro spocchia forzata. Questo è per chi vive in stazione, sotto i portici in soffitta. Per la famiglia, per la clicca, vaffanculo la tua vita, la tua villa. Con weed e IPA rimaniamo dietro al cancello gatekeepers. Quando dico lotta, voi mi dite armata. Lotta, armata, lotta. E qua quando dico lotta, tu rispondi armata. Armata, lotta. Piace questa merda, sì o no? Non si è sentito un cazzo, ti piace o no? Uno, due, tre! Pow! Comunque adesso ci scaviamo dai coglioni. Questa è l'ultima traccia. E poi vi lasciamo all'Hard Squad Crew e a DSA Comando. Dello statalismo e di altri metodi di controllo. Sarà l'era in cui l'umanità intera si batterà per qualcosa di puro, per qualcosa di giusto. Siete solo dei pezzi di merda, non avere un'altra scelta aperta, serva. Questa roba la prendo come una guerra, una mina di uomo per fare il salto dell'etichetta. Trappi come mangia catene della bruschetta. Un italiano su te vuole la pena di morte. L'asino che dice tu ed essere di forte. Meglio rechizzuto a pieni note dose. Mi senti morose e vuote. Mi teme a cose vive, cose invidie. Proprie di due, forse ne tenero prima. Che non è di sé, proprie di tensione. Ho il sensore che è pastore. Cosa l'occasione, far politica sull'impressione. Il gregge che si legge sulla legge della trazione. Fa culo la nazione. Per cambiare la mia vita, se la vita al cazzo. Ti do il dito, prendi il braccio, la vita al cazzo. Questa musica ti mette in imbarazzo, la vita al cazzo. Levati dal cazzo. Vuoi cambiare la mia vita, levati dal cazzo. Ti do il dito, prendi il braccio, la vita al cazzo. Questa musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo. Levati dal cazzo. Vuoi cambiare la mia vita, ti do il dito, prendi il braccio, levati dal cazzo. Questa musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo. Levati dal cazzo ancora. Vuoi cambiare la mia vita, dito prendi braccio. Questa musica ti mette in imbarazzo. Levati dal cazzo, levati dal cazzo. Segreti di stato, dove sta la radice del problema e dove sta il ramo malato. Ho scattato una foto e seguaci di QAnon con una canone al foto dal bacio agli si vede l'ano. Il popolo sarà sovrano quando verrai sentito da Dio. Parliamo di uno piaccio, piaccio no. Io non mi sento italiano, è un sistema che mi dovrà difendere. Non è ancora nato. Caccio barre occhi chiusi come gli aerei di Dio. Ho scelto di studiare storia ispirato dalla musa che mio. Per discernere il dato di fatto dal basso la barba inserita dei protocolli di stato di Dio. Nel donne cugino della morte chiamo lo zio. Ci ritroveremo in Dio, grazie da convinto di Dio. La fine delle dialogi, l'inizio delle semplici, ma visto che non posso fare magia, te lo chiedo perché il mente io. Vuoi cambiare la mia vita, e ti do il dito, prendi il braccio, levati dal cazzo. Questa musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Vuoi cambiare la mia vita, levati dal cazzo. Ti do il dito, prendi il braccio, levati dal cazzo. Questa musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Insieme, vuoi cambiare la mia vita, dito prendi il braccio, levati dal cazzo. Se sta musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Vuoi cadere la mia vita, e ti do dito prendi il braccio. Se sta musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Casino per DJ Libero. Dai, lo sentite no, cazzo. Oh. regà, noi abbiamo finito. Vi lasciamo ad Art Squad Crew, di essere a comando. Fatevi un po' di casino. Ragazzi, siete carichi o no?